piano. Di Enrico Ruggeri. Belli muoiono giovani e lasciano i brutti alla loro brutta vita. Queste sono parole di Bukowski e sembrano scritte apposta per il personaggio di cui stiamo per parlare, la farfalla granata, il calciatore artista della storia italiana, morto troppo presto quando davanti a lui c'era ancora una storia tutta da scrivere, ma forse proprio per questo, oltre che per la sua particolarissima vita, consegnato alla leggenda. Oggi vi racconto il breve volo di Gigi Meroni. È il 15 ottobre 1967, una domenica come tante. A Torino arrivano i primi freddi, arriva la nebbia, sulla città cala il grigio tipico dell'autunno piemontese. Quella non è una domenica come le altre. Gigi Meroni sta giocando con la sua maglia granata numero 7 con il Torino. Gioca contro la Sampdoria, non sa che quella sarà la sua ultima partita, perché prima che la giornata si concluda accade un fatto che tutti i tifosi del Toro ricorderanno per sempre. È morto il calciatore Gigi Meroni. La disgrazia è avvenuta questa sera a Torino in corso Re Umberto, dove il calciatore, in compagnia del compagno di squadra Fabrizio Poletti, stava attraversando la strada. Arrivati al centro della carreggiata, Meroni veniva colpito da una prima auto che lo sbalzava al centro della strada. A quel punto un'altra auto l'ha colpito e trascinato per 50 metri. Le condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Un medico che si trovava casualmente sul luogo dell'incidente capiva fin da subito che le condizioni dello sfortunato campione, che aveva già perso conoscenza, erano disperate. Quella domenica il Torino aveva conquistato una larga vittoria contro la Sampdoria. L'allenatore Fabri, Edmondo Fabri, aveva premiato i suoi giocatori con una serata libera e tutti sono corsi dalle loro compagne per la cena. Non erano ancora anni di discoteche e di foto su Instagram. Tra questi giocatori ci sono due simboli di quella squadra. Sono Gigi Meroni, maglia numero 7, e l'amico Fabrizio Poletti, maglia numero 2. Sono inseparabili dentro e fuori dal campo. Loro sono in centro. A Torino devono attraversare Corso Re Umberto per raggiungere le fidanzate che li stanno aspettando al ristorante. Sono le 9:30 di sera. Mentre sono al centro della carreggiata, una macchina li sfiora, devono fare un passo indietro per evitarla e quel movimento si rivelerà fatale, perché c'è un'altra macchina che arriva dal senso opposto e li colpisce. Meroni è investito in pieno, ricade violentemente sull'asfalto e viene travolto da un'altra macchina. I soccorsi sono inutili, Meroni viene portato di corsa all'ospedale Mauriziano, che è a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente. Alle 10:30 dalla porta dell'ospedale esce un dottore che conferma: Meroni è morto. Sono le parole che sente anche Cristiana, la fidanzata di Gigi, che era in attesa di un bambino che non nascerà mai, lo perderà a causa del trauma. Sul posto c'è anche il giornalista Giampaolo Ormezzano. Quando il medico è apparso, ha allargato le braccia e Cristiana ha urlato un no che mi sta ancora dentro le orecchie, l'impatto è stato così violento che si è salvato di me stesso solo il personaggio giornalista, il più cinico, il più cattivo, il più freddo, e ho fatto, credo, un bel servizio sulla morte di Gigi Meroni. Io ero un bambino, mi ricordo il mio pianto a scuola quando lo sono venuto a sapere. Non ero tifoso del Torino, ma tutti i bambini di quella generazione, io avevo 10 anni, erano affascinati da Meroni, e adesso vedremo perché. Siamo alla camera ardente, viene allestita nella sede del Torino, e solo nelle ore successive si scoprirà che quella morte è segnata da un destino veramente beffardo, perché il ragazzo alla guida guida della macchina che ha investito Meroni è un neopatentato ed è un grande tifoso del Torino. Nel portafoglio ha la figurina di Gigi e lui si pettina come Meroni al manifesto di Meroni in camera. La notizia fa il giro della città, del paese. A Torino Meroni è considerato un mito, ha conquistato l'attenzione di tutti con la sua personalità esuberante, ma anche con la sua grande bravura in campo. Lui è un ragazzo libero e diverso dagli altri, è anticonformista, non ha paura del giudizio della gente, è uno che non si chiude a riccio come fanno molti calciatori di oggi, che non parlano anche perché non sanno parlare e delegano i loro contatti col mondo ai social. Lui è uno capace di travestirsi da giornalista e andare a intervistare i passanti, come ha fatto nello speciale Un Beatle Italiano, uno speciale Rai, peraltro uno speciale di Emilio Fede. Vorremmo sapere cosa ne pensa di Meroni. Beh, a parte il fatto che sono della Juventus, comunque come giocatore a estro vede il gioco, però trattiene un po' troppo la palla, diciamo, rallenta un po' l'azione dei compagni, insomma. Beh, per quello che posso giudicare io, insomma, non l'ho visto giocare troppe volte, veramente. Ma lei lo conosce Meroni? No, personalmente no. Grazie. Gigi è un artista nato, è uno che non nasconde la sua personalità, ne va fiero. Un calciatore di cui abbiamo parlato, al Falco e il Gabbiano, uno che l'ha conosciuto in nazionale, Giovanni Lodetti, ricorda di quando giocavano assieme. Ho avuto la fortuna di conoscerlo da vicino, Gigi, perché spesso e volentieri nelle convocazioni nazionali ci mettevano insieme in camera. Dunque ho avuto modo anche di parlare, di vedere, perché sembrava un personaggio estraneo al mondo moderno e invece no, era tutto naturale quello che lui faceva. Però era una persona che faceva tutto con la massima tranquillità e serenità, dunque non aveva interesse a farsi vedere o meno. And though I lose a friend, in the end you will know. Luigi Meroni nasce nel febbraio del 43 a Como, una terra di industrie tessili e di contrabbandieri. È il secondo figlio di Emilio Meroni, artigiano, Rosa Tagliabue casalinga. Il padre muore presto, mamma Rosa deve occuparsi da sola di Gigi e dei suoi fratelli. La donna inizia a lavorare per degli stabilimenti tessili nella zona. In casa confeziona cravatte, i bambini l'aiutano, tutti sono raccolti attorno al tavolo della cucina e Gigi durante queste serate impara l'arte dei disegnatori di cravatte, gli sarà utile più avanti. Nel tempo libero gioca a pallone con la maglia bianco-verde della Libertas San Bartolomeo, che è la squadra dell'oratorio. Il campo di gioco è unico nel suo genere, è in una specie di conca sotto al livello del terreno, al posto delle linee laterali e delle linee di fondo c'è un muretto di 80 centimetri, un dettaglio che obbliga i calciatori a guardarsi sempre alle spalle con la coda dell'occhio per evitare di andarci a sbattere contro quel muretto. Beh, su questo campo di fortuna si comincia a intravedere il grande talento di Gigi, che è capace di dribbling mai uguali, di movimenti fulminei e bravo a fare i gol, ma anche a fare gli assist. A 15 anni arriva la prima offerta dalla Serie A, lo racconta Nando Dalla Chiesa nel suo bellissimo libro La farfalla granata. Nel 1958, quando Gigi ha 15 anni, arriva da lui niente meno che l'Inter. Per Meroni quella chiamata da Milano è una vera conquista. La squadra nerazzurra è forte di assi come Angelillo e Nacka Skoglund e con i giovani ha dimostrato di avere ottimi occhi, andando a pescare un anno prima a San Michele Extra, in provincia di Verona, un ragazzino di nome Mario Corso, solo 2 anni più giovane di Luigi. Alla proposta dell'Inter, Gigi va in paradiso e quindi firma di corsa il cartellino con i nerazzurri. Ma non ha fatto i conti con la signora Rosa. Appena la donna viene a sapere che il figlio dovrebbe fare 2 o più allenamenti alla settimana sul campo Reda Elli di Rogoredo, gli comunica la secca decisione. Tu, a Milano da solo, non ci vai! E pensate, questo è veramente un bivio se Gigi fosse andato all'Inter, a parte la gioia dei tifosi dell'Inter come me, ma tutto sarebbe andato in maniera diversa, ma si sa, le cose nella vita vanno come devono andare. Lui è deluso per l'opportunità sfumata con l'Inter, ma il suo talento è evidente, non lo si può nascondere, e si fa sotto un'altra squadra professionistica che è il Como, molto più vicino a casa. E il Como prepara una specie di pacchetto famiglia da sottoporre alla signora Rosa. Vengono tesserati sia Gigi che il fratello Celestino. A Luigi andranno 15.000 lire di stipendio mensili e a Celestino viene promesso un posto da contabile una volta lasciato il calcio. E la donna deve cedere a questo punto. Gigi abbandonerà il suo lavoro e andrà a giocare a Como. You know you should, so I guess you might as well. Gigi Meroni ha un fisico gracile, però è agile, è veloce, è leggerino e diventa bersaglio degli avversari che menano negli anni in cui non c'era la prova televisiva e le 13 telecamere in campo. Viene mandato a irrobustirsi in montagna, allenamenti in altura, e lui però intanto legge, studia, perché non è soddisfatto del suo diploma di terza media, vuole migliorarsi, ma intanto lavora duro e il 14 maggio 1961 fa il suo esordio in Serie B con la maglia del Como contro il Verona, e sulle rive del lago lui rimarrà due stagioni, si guadagnerà la chiamata di una grande decaduta della Serie A di allora, cioè il Genoa, e Meroni a Genoa si ambienta in fretta, si innamora della città, lo scrive anche nel suo libro Nando dalla Chiesa. Un ragazzo estroverso e introverso insieme come Gigi, innamorato del mare, trova in Genova, nelle sue movenze fisiche, nei suoi colori dardeggianti, nei venti che la assalgono spazzandola, l'ambiente capace di tirar fuori uno per uno i tratti di una personalità ancora incerta, ma che già sta dichiarando le sue particolari venature, quelle che più colpiranno la fantasia dei tifosi. Il gusto del genio, la visione romantica della vita, la gelosia della propria libertà. A questo punto della nostra storia, Gigi ha 19 anni, non ha visto niente del mondo al di là della sua Como, e a Genova trova un gruppo di giocatori molto più grandi di lui, con abitudini diverse. Lui non beve, non fuma, non gioca a carte, neanche a biliardo, però va lo stesso con loro al bar La Foce, che è il punto di ritrovo dei calciatori genoani, e qui, mentre è seduto da solo al tavolino, incontra la ragazza più bella che lui abbia mai visto in vita sua. I due cominciano a parlarsi, lei è attirata da quel ragazzino dai capelli spettinati, con l'aria diversa dagli altri, non crede quasi che sia un calciatore di Serie A. La ragazza si chiama Cristiana, viene da Milano, è a Genova per aiutare suo zio che ha i go-kart nel Luna Park proprio di fronte al bar, e così la descrive Claudia, un'amica d'infanzia di Cristiana. Era la bella tra le belle. Era appariscente, riconoscibile per essere nordica, figlia di giostrai, ben vestita, curata. Era sorridente, anche spigliata. Al suo tirassegno era un accalcarsi di giovani, di comitive e di militari in libera uscita. Sembrava che per lei non ci fosse nulla di più naturale, e d'altra parte quella era un'arte innata. E tra i due scatta la scintilla. Gigi si innamora perdutamente di quella ragazza. Lei è nata in Polonia da padre tedesco, madre italiana, cresciuta assieme ai giostrai itineranti del nord Italia. Poi lei torna a Milano e lui comincia a fare avanti e indietro da Genova pur di vederla. Nel frattempo lui esordisce in Serie A proprio contro l'Inter, la squadra che lo voleva quando era ragazzino. È il primo novembre del 62. Peraltro la cronaca ci consegna un altro debutto importante quel primo novembre, anche lui con la maglia numero 7, il brasiliano Jair, che segnerà subito al terzo minuto. Si racconta che fece una grande prestazione, e il Genoa perde 3-1 contro l'Inter. Alla fine della stagione lui ha collezionato 15 partite e entra nel giro della nazionale B, perché in quegli anni c'era la nazionale B, fucina di talenti. L'anno dopo deve disputare il torneo preolimpico a Tokyo alla fine del campionato. In quell'occasione ecco il suo primo colpo d'ala, o per meglio dire colpo di testa. È sostenuto dal suo allenatore, che si chiama Santos. Lui finge un infortunio per poter saltare la trasferta giapponese e poter stare qualche giorno in più con la sua Cristiana. Cosa fa l'amore? Lui ha detto a Santos: io non voglio andare in nazionale perché Cristiana sta poco e poi parte. Allora dice: se io salvo il Genoa dalla Serie B e poi alla fine della partita mi butto per terra, lei mi fa fasciare una gamba così non vado in nazionale? Santos gli ha detto sì, e così ha fatto. Siamo nella prima metà degli anni 60, nel mondo tutto sta cambiando, è iniziata la guerra fredda, negli Stati Uniti viene assassinato il presidente Kennedy nel 63, il fratello Bob nel 68, viene ucciso Malcolm X, in Italia ovviamente il governo è in mano alla DC, sono arrivati i Beatles, è arrivato il beat, la swing in London, ma soprattutto sta per arrivare il 68, e Gigi è già immerso in quella l'atmosfera, è un anticipatore dei tempi, segue già determinati canoni estetici, è una via di mezzo tra un figlio dei fiori e un dandy, si fa crescere i capelli, negli anni questo diventerà oggetto di dibattito, soprattutto nelle sue apparizioni con la nazionale. Sulla panchina degli azzurri c'è Edmondo Fabbri, un uomo insomma dal carattere molto particolare, è quello che ci portò al naufragio con la Corea, è un uomo che ama l'ordine, il rigore, la disciplina, è uno che non cambia idea, e in Corea pur di far giocare quei suoi amici del Bologna fece giocare Bulgarelli rotto e giocammo in 10, ma comunque era uno assolutamente refrattario a qualsiasi tipo di novità, non era certo un uomo curioso. Quando Gigi viene convocato per la prima volta deve adeguarsi alle regole imposte dal tecnico, e cioè innanzitutto tagliare capelli e barba, e d'altra parte la nazionale è un traguardo troppo importante, lui deve rinunciare a uno dei tratti che lo rendono unico e riconoscibile. Troviamo un po' diverso come aspetto dal solito, cos'è successo? Mi hanno fatto tagliare i capelli, come vede. È stato Fabbri? È stato Fabbri, mi ha chiesto se potevo tagliarli, che faceva piacere. E Meroni è un rivoluzionario silenzioso, non fa polemica, torna a Genova e i capelli se li fa ricrescere, nessuno può costringerlo a seguire regole che non si sposano col suo modo di essere e di concepire la vita. Lui non è ancora un calciatore importante, ma sta per diventare, e lo resterà per sempre, la farfalla granata. Il falco e il gabbiano. Vi sto raccontando la storia di una leggenda, di un calciatore, ma in realtà di un artista, la farfalla granata. Vi sto raccontando la storia di un pittore, di un anticonformista per eccellenza. Tante persone in un'anima sola, e grazie al suo modo di giocare, a delle movenze leggiadre, a uno spirito naif, lui diventa per tutti la farfalla granata. Lui è il punto di incontro vivente tra il calcio e l'arte, tutto questo per uno sportivo la cui vita è stata stroncata a soli 24 anni. Lo abbiamo lasciato al Genoa, lui ci gioca per due stagioni, nell'estate del 64 riceve delle offerte da tutte le grandi squadre italiane, il Milan, l'Inter, la Juventus, lui vorrebbe andare all'Inter per giocare col suo grande amico Sandro Mazzola, però sono tempi in cui vale la volontà dei presidenti, e il Genoa ha un buon rapporto con il Torino di Orfeo Pianelli, presidente storico, uomo d'altri tempi, e i Granata pagano una cifra esorbitante per l'epoca, 500 milioni di lire. Un calciatore non era mai stato pagato così tanto prima di allora. Meroni, per esempio, lasciamo la notizia dei 500 milioni, perché credo che Meroni, vero Gigi, la pensi esattamente allo stesso modo, non credo che abbia cambiato da quando costa 500 milioni. Per niente, guarda, io sono rimasto sempre quello di prima. La mia valutazione non è un pensiero per me, casomai deve essere un pensiero per quelli che mi hanno valutato questa cifra. Insomma, è disincantato, è impermeabile a quello che succede attorno a lui. Lui vuole giocare, divertirsi e dipingere i suoi quadri. E in panchina c'è un uomo dalla mascella prominente, con i modi bruschi, di gran cuore, ne abbiamo parlato. Insomma, uno di quelli che hanno fatto grande e leggendario il calcio. È un triestino, si chiama Nereo Rocco, è un ex allenatore del Milan. Entra subito in sintonia con Gigi, soprattutto non gli fa tagliare i capelli. Il ragazzo è tanto bravo, malgrado le apparenze, è talmente ubbidiente, talmente che se anche non lo fa, cerca almeno di fare. E i veri ostacoli per la carriera di Meroni non sono certo i limiti calcistici, perché in quel momento non ne hai. L'ostacolo principale è la sua immagine pubblica. Lui a Torino gira con una vecchia balilla che lui ha rimesso a nuovo, va a abitare in una mansarda di Piazza Vittoria assieme a Cristiana, la sua fidanzata, e riempie la casa di tavolozze, di tele. Lei diventa la musa per i suoi dipinti, lui li realizza nel silenzio della notte, quando l'ispirazione è al massimo. E questa casa, insomma, diventa un simbolo dell'amore, il loro nido d'amore. E la pittura non è l'unica forma d'arte che lui padroneggia. Il suo passato di disegnatore di cravatte riaffiora e lo spinge a progettare anche i suoi vestiti. E mai prima di allora e dopo di lui si vedranno calciatori capaci di realizzare una vera e propria linea di abbigliamento come fa lui. Comunque Maroni, lei deve avere un disegnatore speciale per questi suoi vestiti. Sì, ce l'ho un disegnatore speciale. Sono io, li disegno io, pantaloni, giacche, scarpe qualche paio, porto dal sarto che è molto bravo e lui mi sviluppa le mie idee. Le idee che ha in testa Meroni naturalmente vanno a cozzare coi gusti del tempo e dicono che voglia imitare George Best. George Best è l'altro numero 7 con la maglia rossa che sta giocando con il Manchester United. In realtà l'accostamento è, come dire, estetico, entrambi sono capelloni e giocano con la maglia numero 7. Best ha un altro modo, diciamo, di esprimere la sua diversità e lo fa con macchine lussuose, con abbondanti libagioni e con bellissime donne che cambia a ritmo continuo. Ecco, è un'altra cosa. Insomma, Meroni è uno che affascina, che divide, è un idolo ovviamente per i giovani, i tradizionalisti lo guardano con sospetto perché i suoi modi di fare e di vestire sono veramente troppo per i conservatori dell'epoca, che vedono il calciatore come un soldatino invecchiato troppo presto, insomma viene considerato quasi come un sovversivo. Rimangono nella storia delle sue bizzarrie, come quella della gallina che lui si porta a passeggio e chi gli chiede come mai lui abbia scelto un animale così insolito, lui risponde che tutti hanno un cane perché io non posso avere una gallina. Ma il momento critico arriva quando viene alla luce la verità sulla sua relazione con Christiana Uderstadt, la ragazza che frequenta dai tempi del Genoa. Si viene a sapere che lei è già sposata per volere della sua famiglia con un regista di Roma. Lei è in attesa dell'annullamento delle nozze da parte della Sacra Rota, ma la società ben pensante di allora non accetta questo fatto. Insomma, sono gli anni in cui Mina veniva giudicata una pubblica peccatrice perché aveva avuto un figlio da Corrado Pani, gli anni dell'ombelico della Carrà coperto, ma oltretutto c'erano anche uomini particolari che detenevano le leve del potere. Uno di questi era sicuramente l'allenatore della nazionale, Edmondo Fabbri. E Gigi non si cura delle voci che stanno circolando su di lui e su Christiana, perché lui sa quanto vale la loro storia d'amore e continua a vivere la sua vita in maniera romantica e, diciamo, scapigliata, una vita fatta di amore, di arte, di libertà assoluta e di grandi giocate in campo. C'è un aneddoto riportato nel libro di Dalla Chiesa che fa capire quanto Gigi sia un personaggio fuori dagli schemi. Arriva la seconda partita per Meroni con la Nazionale B, in programma a Charleroi contro il Belgio. Accade che all'incontro presenzi la principessa Paola di Liegi. La principessa, italiana della famiglia Ruffo di Calabria, riassume nella sua persona i sentimenti di amicizia tra i due paesi. Nessuno più di lei, dunque, può scendere in campo per congratularsi con tutte e due le squadre. Quando Paola si avvicina ai giocatori, riceve inchini e strette di mano. Finché è la volta di Meroni, eroe della serata. La principessa lo vuole conoscere e gli dice: «Sono contenta, perché stasera ho conosciuto un grande campione». Lui risponde galante, da pari a pari: «E io sono contento, perché stasera ho conosciuto una splendida signorina». Prima di una partita delle qualificazioni mondiali del 66 a Varsavia, Fabbri prende da parte Meroni, gli mostra la maglia numero 7 e gli dice: questa diventa tua solo se ti tagli i capelli. Non so se mi spiego. Gigi, molto calmo, spiega a Fabbri un principio molto semplice: se il suo allenatore del Torino, la squadra che gli paga lo stipendio, gli permette di non tagliarsi i capelli e lo fa giocare lo stesso, non capisce perché glielo debba imporre lui. Fabbri, che è notoriamente una persona molto vendicativa, non la prende bene. Meroni non scende in campo contro la Polonia e, malgrado questo episodio, Fabbri non può fare a meno di convocare Meroni a furor di popolo per i mondiali in Inghilterra, mondiali che termineranno presto per l'Italia con la famosa sconfitta con la Corea, e ce lo ricorda così Giovanni Lodetti. Questi coreani correvano come dei disperati e mi guardi, non so con chi ero lì in fianco, gli ho detto ma vedrai che questi qua secondo tempo crollano, e invece secondo tempo correvano il doppio. E allora abbiamo scoperto dopo che ne avevano cambiati 11, non se ne era accorto nessuno perché erano tutti uguali. Fabbri espone Meroni a una figuraccia perché lo manda in campo nella partita meno adatta a lui, quella contro i sovietici, e poi scarica su altri, soprattutto su Meroni, la responsabilità dell'uscita prematura dell'Italia ai mondiali. Ai due toccherà lo stesso destino e non vedranno più la nazionale. Nel frattempo il calcio italiano reagisce alla disfatta in Coppa del Mondo chiudendo le frontiere. Da quel momento non possono essere più tesserati calciatori stranieri, a meno che non siano già in Italia. A Torino arrivano Cesare Maldini e Mario Trebbi dal Milan, arriva Nestor Combin dal Varese, e Combin del quale abbiamo parlato, altro personaggio mitico, ma le sirene del mercato stanno suonando anche nelle orecchie del numero 7 Granata. C'è il Napoli, al Napoli è arrivato Omar Sivori assieme a Altafini, sta costruendo una squadra spettacolo e il Napoli sarebbe pronto a tutto per averlo, ma Gigi tentenna, ma poi rimane sotto la mole. Il suo destino è quello di diventare una leggenda del toro. Il falco e il gabbiano. Meroni è il calciatore artista, un'anima rivoluzionaria, è in anticipo sui tempi, è un ribelle all'interno di una società che addirittura lo indica come pessimo esempio per i più giovani, pensate. E invece a Torino, a Spondatoro, lo considerano un eroe, nonostante nella sua carriera non abbia praticamente vinto nulla. La sua ultima stagione completa Meroni la gioca con la maglia del Torino nel 66, è la migliore della sua breve carriera, segnerà 9 reti, una di queste è favolosa contro l'Inter, 12 marzo 67, vedete sempre l'Inter che ritorna, siamo a San Siro, pallonetto che beffa in un colpo solo Sarti e Facchetti e si insacca sotto l'incrocio dei pali. Intanto Elenio Herrera è diventato selezionatore della nazionale assieme a Ferruccio Valcareggi, ma anche Herrera è un allenatore particolare, certo geniale, non è un Fabbri, ha vinto qualsiasi cosa, però ha le sue idee, forse vuole anche essere al centro dell'attenzione, insomma per tanti motivi non convocherà mai Meroni in azzurro, non sopporta il suo stile e non la pensa così Rocco, che invece difende a spada tratta il suo numero 7. Gigi è un ragazzo serio, con i compagni di squadra va d'accordo, con l'allenatore anche. Se sbaglia è il primo ad ammetterlo e a chiedere scusa. Se fa le cose giuste non pretende di essere premiato. Un allenatore di tipi come lui ne vorrebbe 11 in squadra. Ma il destino è di nuovo in agguato. Nell'estate del 67 Rocco torna al suo Milan e al posto di Rocco arriva chi? Edmondo Fabbri, l'ex allenatore della nazionale, quello che aveva cacciato Meroni dalla nazionale, quello che gli aveva dato la colpa della sconfitta in Corea, insomma è una cosa particolare. E pensate che in quel momento vengono offerti 750 milioni di lire dalla famiglia Agnelli al Toro per portare Meroni alla Juve, e Orfeo Pianelli non può dire di no a questa offerta clamorosa, e insomma Meroni viene ceduto alla Juventus. Appena esce la notizia sulla sponda torinista si scatena il putiferio. Sì, perché ci sono molti Granata che lavorano alla Fiat, viene boicottata la catena di montaggio della 128, le macchine vengono fatte uscire con un pezzo mancante oppure con la carrozzeria rigata, e sul cruscotto c'è sempre un volantino con la scritta giù le mani da Gigi Meroni. A questo punto l'avvocato Agnelli si spaventa, si ritrae, e lui ha bisogno anche dei Granata per costruire le sue macchine. Insomma Meroni rimarrà a Torino anche nella stagione 67-68. Vedete quanti incastri ci sono affinché Meroni rimanga al Toro, ma anche affinché lui vada incontro al suo destino. Le cose vanno veramente come devono andare. Nel frattempo lui non è particolarmente dispiaciuto del mancato trasferimento alla Juventus, anzi lui dice: mi basta vivere con serenità e con la coscienza pulita, io sono uno zingaro, noi zingari ai soldi badiamo relativamente. Sono cambiate le gerarchie intanto, perché a Torino la star è Meroni, non certo Edmondino Fabbri, e quindi l'allenatore cambia atteggiamento, chiede a Gigi di aiutarlo a ambientarsi a Torino. Meroni potrebbe rifiutarsi, in fondo siamo davanti a quello che ha scaricato tutta la responsabilità della pessima figura italiana in Inghilterra su molti, soprattutto su di lui, e quello che non l'ha fatto giocare, che gli faceva tagliare i capelli, che gli faceva mobbing. Bene, Gigi invece, siccome è un ragazzo di buon cuore, gli dà una mano, poi confiderà a Cristiana di averlo fatto solo perché Fabbri gli faceva pena. Il Torino inizia in maniera altalenante, perde con la Nerossi Vicenza, batte il Brescia, pareggia con la Fiorentina. La quarta giornata c'è la Sampdoria, 15 ottobre 1967. Fabbri forse ha già una panchina a rischio e Meroni lo salva, e tutto il Toro lo salva. Vinceranno 4-2 i ragazzi di Fabbri, 3 gol di Nestor Combin, e la settimana dopo bisogna giocare contro la Juventus. Meroni è illuminato da un'intuizione misteriosa e prevede una nuova prestazione super di Combin. Gigi mi ha detto: dai che domenica prossima giochiamo, c'è il derby Juventus-Torino. Va bene Nestor, mi dice, tu domenica prossima farai 3 gol, hermano. Così mi ha detto Gigi Meroni prima di quella partita. Eh sì, prevede 3 gol, quello che non dice che lui quei 3 gol li vedrà dall'alto. Ma andiamo con ordine, siamo al post partita contro la Sampdoria, quella serata libera che Fabbri ha concesso ai suoi giocatori. Meroni era in mezzo alla strada, vede un'automobile che gli arriva in senso opposto, si spaventa, fa un passo indietro, passo io, lo tocco, poi lo ritocco un'altra macchina, quindi ha avuto quell'incidente per lui poi fatale. Io non sono andato ai funerali perché tra l'altro erano stati i miei avvocati per dirmi: ma magari per motivi di sicurezza è meglio non andare, se fosse qualche tifoso esagitato in realtà non ci sarebbe stato nessunissimo problema, altrimenti sarei andato con grande partecipazione, con grande affetto. È uno scherzo del destino, quel 15 ottobre del 67 alla guida della macchina che investe Meroni c'è Attilio Romero, che diventerà presidente del Torino, quel ragazzo che si vestiva, si pettinava come il suo idolo Meroni. Poi in realtà il Torino dichiarerà fallimento proprio quando al timone di questa società c'era Attilio Romero, ma questo non toglie nulla allo scherzo incredibile che il destino fa a tutta la Torino granata. Naturalmente la settimana dopo la morte di Gigi per i giocatori del Toro è surreale, ma loro stanno preparando un derby che vogliono giocare proprio in sua memoria, lo racconta anche il presidente Pianelli dopo la partita. Ci davano tutti per perdenti, sia i giornali, sia eccetera. Invece noi, un bel momento, mi ricordo che sono andato negli spogliatoi prima della partita e già tutta la settimana ero dietro loro, e un bel momento le dicevo: qua bisogna che mettete un pizzico in più voi, che è quello che aveva il Meroni, e dobbiamo recuperare quel pizzico che abbiamo perso per una disgrazia. Il 22 ottobre 67 è una delle giornate più strane, magiche, surreali della storia del calcio, perché il Torino quel derby lo vincerà 4-0 e la profezia di Meroni si avvererà. Combin segnerà 3 gol e l'ultima rete la segna un ragazzo, si chiama Alberto Carelli, ha 23 anni, è dovuto entrare in campo con la maglia numero 7 perché in quegli anni non c'era modo di evitare questo, perché si giocava con le maglie dall'1 all'11. Carelli entra in quello stadio, debutta con la maglia di Meroni e segna un gol. Ci sono colpi d'ala di giocatori che non hanno messo nessun trofeo in bacheca, eppure sono stati consegnati alla storia. La storia del popolo granata e di tutto il calcio in generale non può prescindere da Gigi Meroni, l'artista che giocava anche a calcio. È l'unico, forse, grande artista della Serie A. Siamo stati privati di uno dei personaggi più carismatici dello sport, ma abbiamo una leggenda da celebrare. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina e i miei social, i nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano.